Sezione 33esima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 33esimo. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso entre mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi dimanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo infin qui ha vedute le vite spiritali ad una, supplica te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. Ed io, che mai per mio veder non arsi più che io fo per lo suo, tutti i miei preghi ti porgo, e prego che non sieno scarsi, perché tu ogni nube gli disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer gli si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoi, che gli conservi sani, dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani. Vedi, Beatrice, con quanti beati per li miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati fissi nell'orator ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume si drizzaro, nel qual non si può creder che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro. Ed io, che al fine di tutti i disii m'appropinquava, sì com'io doveva, l'ardor del desiderio in me finii. Bernardo m'accennava e sorrideva, perch'io guardassi in suso, ma io era già per me stesso tal qual ei voleva. Che la mia vista, venendo sincera, e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio che il parlar nostro ch'a tal vista cede, e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che somniando vede, e dopo il sogno la passione impressa rimane, e l'altro alla mente non riede? Cotal son io, che quasi tutta cessa mia visione, ed ancor mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si dissigilla, così al vento nelle foglie lievi si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce, che tanto ti lievi da concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi, e fa la lingua mia tanto possente, una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria. Io credo, per l'acume ch'io soffersi del vivo raggio, ch'io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero avversi. E mi ricorda ch'io fui più ardito per questo a sostener tanto, ch'io giunsi l'aspetto mio col valore infinito. O abbondante grazia, ond'io presunsi ficcar lo viso per la luce eterna tanto, che la veduta vi consunsi. Nel suo profondo vidi che s'interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna. Sustanza ed accidente, lor costume, tutti conflati insieme per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo credo ch'io vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento ch'io godo. Un punto solo m'è maggior letargo che 25 secoli all'impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. Così la mente mia tutta sospesa mirava fissa, immobile ed attenta, e sempre di mirar faceasi accesa. A quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibil che mai si consenta, perocché il ben che è del volere obietto tutto s'accoglie in lei, e fuor di quella è difettivo ciò che lì è perfetto. Omai sarà più corta mia favella, pure a quel ch'io ricordo che d'infante che bagna ancor la lingua la mammella. Non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tale sempre qual era davante, ma per la vista che s'avvalorava in me, guardando una sola parvenza, mutando mio, a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvemi tre giri di tre colori ed una contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea riflesso, e il terzo parea fuoco che quinci e quindi igualmente si spiri. Oh, quanto è corto il dire e come fioco al mio concetto, e questo a quel che io vidi è tanto che non basta a dicer poco. O luce eterna, che sola in te sidi, sola ti intendi, e da te intelletta ed intendente te ami ed arridi. Quella circulazion che sì concetta pareva in te come lume riflesso, dagli occhi miei alquanto circonspetta, dentro da sé del suo colore istesso mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurar lo cerchio e non ritrova pensando quel principio ond'egli indige? Tale era io a quella vista nuova. Veder voleva come si convenne l'immago al cerchio e come vi si indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, all'alta fantasia cui mancò possa, ma già volgeva il mio disiro e il velle, sì come ruota che egualmente mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Fine del canto 33. Fine della Divina Commedia, Il Paradiso, di Dante Alighieri.